Da tanto Severino, tra metafisica e psicoanalisi, in quaderno a righe, legge caso tra le mani, fiato sospeso, cerco un essere che non crolli sotto il peso del divenire. Platone ha ucciso Parmenide, di Cipriano ha lasciato al mondo solo dei surrogati di eternità, immutabili appesi al cielo come idee sul filo. Per calmare la paura del nulla che avanza in città. Essere, essere, non può farsi non essere. Lo dice la logica, non solo la poesia. Ma se il mondo corre, tutto cade e cambia. Chi mi salva dall'ansia di questa foria immobile? Uno, eterno, indivisibile. Una sfera piena, senza crepe né metà. Dimmi ultimo Parmenideo, è verità o solo un sogno che ci nega la realtà? Dopo Platone la filosofia ha perso casa, ha scambiato l'essere per ombre sugli schermi del pensiero. Ogni sistema un nuovo idolo, un immutabile di passaggio, per coprire il brivido del nulla con un velo provvisorio e leggero. E la tecnica arriva come l'ultimo dio di ferro, vuole rendere controllabile il fiume del divenire. Misura, calcola, prevede, programma il mondo intero per mettere in gabbia il caso e la paura di morire. Essere, essere, non può farsi non essere. Lo dice la logica, non solo la poesia. Ma se il mondo corre, tutto cade e cambia. Chi mi salva dall'ansia di questa boria immobile? Uno, eterno e indivisibile. Una sfera piena, senza crepe né metà. Dimmi ultimo Parmenide, è verità o solo un sogno che ci nega la realtà? Parmide divide i sogni dai desti, i dormienti vedono il mondo che nasce e muore ogni dì. Il filosofo invece sull'orlo del mistero vede l'essere fermo che mai si contraddì. Niente inizio, niente fine, niente tagli nella sfera, nessun prima e nessun dopo a sporcare l'eternità. Eppure io vivo nel traffico tra corpi che invecchiano e questa calma assoluta mi sa di religiosità. Popper indica in Platone il primo grande totalitaro, ma forse il seme è già nel cuore dell'essere uno. Se l'uno non ammette differenze nel suo scenario, che spazio resta per il molteplice, per il volto di ognuno? Immobile come regimi che odiano il movimento, uno come sistemi che vietano ogni alterità. Se l'essere è così, chi parla fuori tempo viene espulso silenzioso dalla possibilità. E allora forse Marx sorride dietro il vetro, la struttura cieca precede il nostro dire. Il totalitarismo nasce prima del concetto del bisogno di stabilità che non vuol mai finire. Essere, essere, non può farsi non essere. Lo dice la logica, non solo la poesia. Ma se il mondo corre, tutto cade e cambia. Forse Eraclito ride in fondo alla teoria. Il fiume scorre, tu non ti bagni due volte. Cerca un porto in questa instabilità. Dimmi ultimo Parmenideo, è sicurezza o è paura che si veste di verità? Non voglio demonizzare il silicio e le macchine. La tecnica cura, illumina, può anche farci bene. Ma quando la trasformi in una fede senza macchie, diventa un dio di numeri che non conosce il non so bene. L'essere non ci sta tutto in una formula elegante, sfugge alle griglie del determinismo perfetto. La tecnica è il suo ruolo, non il trono dominante. Non è Vangelo, è solo un fragile strumento del progetto. Vedo Watson che riduce l'uomo a riflessi condizionati. Niente inconscio, niente abissi, solo inputi o put in catena. E la stessa fame di controllo, gli stessi muri alzati contro il caos che ci abita, contro la nostra stessa pena. La volontà di potenza di Nietzsche, di Adler. Io che vuol dominare il mondo, prendere il timone. La tecnica dentro la psiche che vuole un universo stabile, senza scarti, senza resti, senza contraddizione. E poi c'è Freud col suo principio di piacere, omeostasi create, minimo sforzo nel respiro, portato all'estremo diventa principio di morte. Un essere fermo senza più rischi, da cui fuggiro, a cui miro. Immobilismo totale o dominio della tecnica sul mondo sono due facce dello stesso abbraccio soffocante. Nel punto estremo il piacere coincide col nulla, con l'essere parmenideo, immutabile gigante. Essere, essere, non può farsi non essere. Lo dice la logica, lo grida l'eternità. Ma nel mio cuore corre un piccolo oraclito che ama ogni nascita, ogni fragile identità. Severino, maestro dell'ultimo Parmenide, tu cerchi salvezza dall'angoscia del divenir. Io resto in bilico tra tecnica e mistero, tra il bisogno di certezze e la voglia di fluire. Essere, essere, ma il mondo è in movimento. E forse la mia verità non sta da una parte sola. Cammino sul confine tra legge e caso nel pensiero, cantando questa canzone.